certe mattine, quando il sole non è ancora sbucato dalla linea blu dell'orizzonte, se si osserva bene la superficie della spiaggia, là, dove l'onda del bagnasciuga ha lasciato un po' di sale a far brillare i granelli scuri della sabbia umida, possiamo scorgere una sorpresa. Alcune zampette striscianti hanno lasciato una lunga fila di strane esse impresse nella sabbia. Sono le tartarughe marine che hanno passato la notte sulla terraferma per deporre le uova e che, prima che faccia giorno, fanno ritorno in mare. Anche Marta, una careta caretas, ovvero una varietà di testuggine di mare tipica del Mediterraneo, faticava non poco arrancando con le compagne sulla spiaggia per fare il suo dovere di mamma. Poi, prima dell'alba, quando i primi raggi di sole cominciavano a balenare nel cielo, terminava la sua lunga corsa e si tuffava nell'acqua limpida dello Ionio, davanti al famoso villaggio turistico in quella zona che va da Pozzallo a Marina di Ispica. Ogni anno Marta si fermava insieme alle compagne per deporre le uova. Ogni anno Marta seguiva le orme delle prime, le più coraggiose, che sceglievano i percorsi verso la terraferma e poi, una volta là, la direzione da prendere sulla spiaggia. E a ogni anno che passava, Floriana, la decana del gruppo, la pregava di prendere finalmente il comando. Ma Marta era troppo insicura per prendersi questa responsabilità, troppo indecisa per accettare una carica del genere. Un giorno, mentre deponeva le uova nella sabbia, sotto alcuni cespugli di ginepro, la tartaruga sentì uno strano rumore sotto di sé. Incuriosita si voltò a guardare la nidiata per vedere che cosa stesse succedendo. Con sorpresa si accorse che un uovo, decisamente più grosso degli altri, era scivolato sotto il suo corpo, rotolando probabilmente da una duna di sabbia vicina. Sicuramente un uovo di uccello, caduto dal nido che il destino aveva unito alle sue piccole uova. Indecisa come al solito, Marta non seppe far altro che accettare la novità. Capì che non era il caso di cambiare nessuna delle sue abitudini e riprese il suo lavoro, che consisteva nel coprire le uova con la calda e umida sabbia, lasciando che anche il nuovo arrivato fosse protetto allo stesso modo dei suoi futuri figli. Marta fece tutto con cura, anzi, con maggior cura del solito, visto che si sentiva ancor più responsabile per il fatto di dover accudire ad una creatura che certamente gli era stata affidata dal destino. Poi, come al solito, prima dell'alba, riprese la sua corsa verso il mare assieme alle compagne, alle quali non ebbe il coraggio di confessare che cosa era successo. Quindi tornò al rassicurante, generoso abbraccio del mare. I giorni passarono e le uova deposte da Marta, protette dal calore della sabbia, disposta con grande cura, si dischiusero. Anche l'uovo di uccello, che per fortuna era particolarmente esposto ai raggi solari, conservò abbastanza tepore dentro il proprio guscio da proteggere fino alla nascita il piccolo diusignolo che si era formato al suo interno. Un bel giorno, tutta la nidiata si dischiuse in un gioioso frastuono di gusci spezzati. Poi, urlando di felicità, le piccole tartarughe si lanciarono nella loro prima corsa verso il mare. Anche il piccolo usignolo, col petto gonfio di emozione, aveva corso assieme a quelli che credeva essere i suoi fratelli, ma una volta giunto al mare si era reso conto di non saper nuotare come loro e si era dovuto arrestare sul bagnasciuga, accovacciato sulle zampette, fino a mattina inoltrata. Aiutato dalla mano di un bambino che era fortunatamente passato di lì, l'usignolo era tornato sul ramo ed aveva poi imparato a volare e a cantare bellissime melodie. Intanto Marta, in mare aperto, aveva spesso ripensato al grande uovo che le era stato affidato dal caso, cercando sempre di immaginare come sarebbe stato il suo figlio adottivo. Così, quando il gruppo delle tartarughe fu raggiunto in mare dai nuovi piccoli nati, Il pensiero della tartaruga, sia pure nella felicità di incontrare tutti i piccoli della sua nidiata, andò subito al grande uovo. Col passare dei giorni Marta cominciò a provare una vera e propria smania di conoscere il suo piccolo adottivo e soprattutto di sapere se l'uovo, covato grazie alle sue attenzioni, avesse fatto nascere un uccellino e se il piccolo se la fosse cavata e che forma avesse. Così arrivò il giorno in cui tornare alla spiaggia per deporre le uova. Marta prese il coraggio a due zampe e si recò dalla decana del gruppo, la vecchia Floriana, per dirle che sarebbe stata lei a guidare le altre verso la spiaggia e sulla terraferma. La sua smania di avere notizie del figlioccio adottivo l'aveva spinta a cancellare tutte le indecisioni. Fu così che il gruppo fu guidato per la prima volta da Marta, cosa che la tartaruga fece benissimo e con grande senso di responsabilità. Una volta sulla terraferma, la tartaruga sentì il melodioso richiamo dell'usignolo e capì subito di chi si trattasse. Anche l'usignolo riconobbe la sua mamma adottiva e appena questa fu vicino al cespuglio di ginepro, corse a salutarla abbracciandola, per quanto è possibile l'abbraccio tra un uccellino e una tartaruga. Da quel giorno, ogni anno, è Marta a guidare il gruppo delle tartarughe ed è considerata da tutte la migliore guida che il branco abbia mai avuto. A chi le chiede perché, appena arrivate sulla terraferma, si levi un meraviglioso canto di usignolo, Marta sorride, piena d'orgoglio, poi risponde: «Naturale, è mio figlio».